Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che il Dio della pace sia con tutti voi. In questa trasmissione prendiamo in esame il termine immagine. Vi sono parole nella Bibbia che hanno un'importanza capitale e dalla comprensione delle quali dipende la capacità di capire il testo sacro. Una di queste parole è immagine, termine che, tenendone presente anche la citazione al plurale, si trova più di 100 volte. A valorizzare questo termine non è tanto il numero di volte in cui lo si trova nella parola di Dio, ma l'applicazione del termine. Infatti, esso viene usato, per esempio, per spiegare che l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio, che Mosè vedeva l'immagine di Yahweh e che Gesù è l'immagine del Dio invisibile. Già solo questi tre aspetti rendono necessaria una più approfondita analisi del termine per cogliere il meraviglioso pensiero che Dio ha voluto rivelare all'uomo. Iniziamo con il considerare che l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio. Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Nel racconto della creazione del primo uomo e della prima donna, il termine Selem, cioè immagine, viene usato tre volte e tutte e tre esso è messo in relazione con la divinità, definita Dio. Qualsiasi spiegazione si dia al termine immagine, esso ha a che fare con le persone del Dio Trino degli ebrei e dei cristiani, e a nessun altro è stato dichiarato di essere stato fatto ad immagine di Dio, sia appartenente al mondo minerale, vegetale o animale. Notiamo che l'uomo è stato fatto ad immagine di una divinità trina, perché da sempre i cristiani credono che in Dio sussistino tre persone, e cioè il Padre, il Figlio e la persona dello Spirito Santo. Proprio perché il Dio dei cristiani è trino, alcuni hanno ipotizzato che il termine immagine si riferisca al fatto che l'uomo e la donna hanno una natura trina, cioè sono fatti di corpo, di anima e di spirito. Altri studiosi invece hanno ravvisato nel termine immagine una investitura della razza umana a dominare sul creato, ad avere creatività, ad essere il rappresentante di Dio. Altri ancora, essi vedono nell'espressione immagine di Dio la somiglianza che l'uomo ha con Dio, dato che possiede qualità morali come la giustizia, la purezza, l'amore, il perdono, l'umiltà e la conoscenza. Eppure, i due termini immagine e somiglianza compaiono come sinonimi in un'iscrizione scoperta in Siria ai piedi di una statua di un re, e da essa si apprende che aspetto fondamentale dell'immagine è rappresentare una persona. L'immagine del re, di conseguenza, deve rappresentare il re. Nello stesso modo, l'uomo, creato a immagine di Dio, ha il compito di rappresentare Dio. L'aspetto esteriore non è assolutamente accantonato. Perciò, nel termine Selem, cioè immagine, c'è qualcosa di più profondo che, una volta individuato e applicato alle altre parti della scrittura, rende più comprensibile il pensiero di Dio. Nel libro della Genesi e né altrove nelle scritture si trova un tentativo di spiegare il significato di immagine di Dio, e questo porta a concludere che l'espressione doveva essere familiare ai lettori. Abbiamo però l'espressione immagine applicata in certe circostanze che possono rendere l'idea che ne avevano gli scrittori biblici. Uno dei brani biblici dove si trova il termine immagine è al capitolo 5 della Genesi. Ascoltiamo. Questo è il libro della discendenza di Adamo. nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Set. In questa occasione lo scrittore descrive l'uomo fatto a somiglianza di Dio, espressione questa che abbiamo riscontrata anche nel capitolo 2, quando viene narrato per la prima volta la creazione dell'uomo. In seguito lo scrittore racconta che Adamo generò un figlio e lo generò a sua somiglianza e conforme alla sua immagine. Espressioni queste uguali e identiche per definire come l'uomo è stato fatto, e cioè a immagine e somiglianza di Dio. Non vi è dubbio che lo scrittore voglia intendere che Adamo abbia generato un figlio con le sue stesse caratteristiche non solo morali, ma anche somatiche. In definitiva, Adamo ha generato un figlio che non era altro che una Selem, cioè una copia esatta o una riproduzione fisica e spirituale di se stesso. Alcuni studiosi di ebraico, nonostante il termine ebraico Selem possa anche essere tradotto con ombra, non vedono di buon occhio questo accostamento, però sono concordi nel ritenere che il termine immagine possa essere tradotto con statua, o rilievo, disegno, costellazione, figura cultuale, forma corporea. Quindi, quando leggiamo che l'uomo, cioè inteso il maschio e la femmina, secondo la descrizione che troviamo nel capitolo 5 della Genesi, fu fatto d'immagine di Dio, significa che il Dio trino dei cristiani deve avere anche, oltre a quelle già prese in esame, caratteristiche umane sia come forma fisica sia come caratteristiche sessuali. Conclusione questa che potrebbe essere ritenuta assurda, ma avvalorata anche del resto della scrittura. O Eterno, tu sei nostro Padre. Come una madre consola il proprio figlio, così io consolerò voi. Dunque, Dio è tanto Padre quanto Madre. Si sostiene che Dio è spirito e non può avere un corpo. Che Dio sia spirito è vero, perché lo dice la scrittura, ma trarre da questa affermazione la conclusione che Dio non abbia un corpo è un errore derivato non tanto da ciò che è scritto, ma in ciò che si comprende in questa asserzione. Se Dio non ha un corpo, perché la scrittura afferma che uomini e donne hanno visto Dio e lo hanno toccato? Se Dio non si può vedere, perché Yahweh, la divinità dell'Antico Testamento, rivolse le seguenti parole a Miriam e a Mosè quando volevano togliere l'autorità a Mosè? Ascoltiamo. Con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere, e non con detti oscuri. Ed egli guarda l'immagine di Yahweh. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? Ancora una volta troviamo il termine immagine. E Yahweh Dio lo usa per se stesso, sostenendo che Mosè vedeva la sua forma corporea e la sua esatta riproduzione. Dunque, Yahweh, il nome proprio della divinità ebraica che è tradotto con l'Eterno o il Signore nelle nostre Bibbie, ha una forma corporea che si può vedere e toccare. In effetti, Giacobbe vide Yahweh e lottò con lui, cioè con il Dio di Israele. Con questa prospettiva possiamo comprendere meglio ciò che troviamo scritto nella Genesi in merito alla creazione di Adamo ed Eva. Ascoltiamo di nuovo. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò ad immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Poiché il termine Dio è un termine comune attribuito anche alle divinità pagane, e perciò il suo significato sta per divinità, dobbiamo intendere che in seno alla divinità, Yahweh, cioè Cristo, fece l'uomo a sua immagine, cioè lo fece secondo la sua copia esatta in forma corporea. Dunque,

e che restringono unilateralmente la somiglianza con Dio alla spiritualità dell'uomo, alla sua dignità, personalità o capacità morale di decidere. Non si deve in alcuna maniera escludere dalla somiglianza con Dio la meravigliosa figura del corpo dell'uomo. Sarà bene, continua questo teologo, separare il meno possibile il corporeo dallo spirituale. L'intero uomo è fatto ad immagine di Dio. Il diottrino non poteva creare una creatura in modo più glorioso se non facendo un essere a sua immagine. Altro non aggiungo, cari ascoltatori, e a risentirci per ascoltare altre riflessioni in merito alla parola di Dio.